Europa 24. Ben ritrovati, nuovo appuntamento con Europa 24. L'inflazione in primo piano, il dato in rialzo nella zona euro dallo 0,5% di marzo passa allo 0,7% di aprile, invertendo la tendenza degli ultimi mesi, lo comunica Eurostat nella stima flash. A gennaio e febbraio era stabile allo 0,7%, a dicembre 2013 in calo allo 0,8%. Inflazione in rialzo nella zona euro, secondo la stima flash di Eurostat, passa dallo 0,5% di marzo allo 0,7% di aprile, invertendo la tendenza degli ultimi mesi. A gennaio e febbraio, infatti, era stabile allo 0,7%, a marzo aveva appunto rallentato allo 0,5%. Per quanto riguarda le componenti, sono i servizi ad evidenziare il tasso più alto, 1,6% contro l'1,1% di marzo, seguiti da cibo, alcol e tabacco, 0,7% contro 1%, merci industriali, 0,1% contro 0,2% ed energia, meno 1,2% contro meno 2,1%. Dati, quelli di Eurostat, da affiancare a quelli sulla ripresa economica dell'area euro. Gli ultimi in ordine di tempo arrivano dall'indice Eurocoin elaborato da Banca d'Italia e Istituto CEPR, secondo cui la ripresa in aprile si è stabilizzata segnando un incremento dello 0,39%, quasi invariato dal più 0,38% di marzo. Un indicatore viene sottolineato sostenuto dall'evoluzione favorevole dei mercati finanziari e del clima di fiducia di famiglie e imprese. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. L'Europa di fronte alla crisi dell'immigrazione clandestina sul fronte sud dell'Unione Europea. In occasione del dibattito organizzato da Euronet Plus, Gigi Donnelly ha chiesto ai quattro candidati alla presidenza della prossima Commissione Europea di rispondere all'appello del ministro degli interni Alfano per un'equa distribuzione dell'impatto e dei costi dell'immigrazione clandestina. Abbiamo bisogno di darci una legge europea sull'immigrazione. Oggi c'è solamente spazio per l'abuso e per l'assenza di ogni regola. Il candidato socialista Martin Schulz crede che la crisi sul fronte sud vada affrontata distribuendo i migranti in quote. Italia, Spagna, Grecia, Cipro e Malta dice hanno diritto alla solidarietà di tutti. Anche Guy Verhofstadt, candidato per i liberal democratici, crede che l'unico modo per arginare l'immigrazione illegale in Europa sia quello di darsi il più rapidamente possibile delle linee comuni per regolare gli ingressi legali dal sud del mondo. Favorevole piuttosto a sostenere economicamente le misure di rimpatrio, si è detto il candidato del Partito Popolare Europeo Juncker. Mentre per la Verde Scacheller la vera sorpresa del dibattito è sentire che tutti sono d'accordo sulla regolamentazione dell'immigrazione in Europa. Effettivamente da 20 anni se ne parla, ma per adesso i 28 Stati membri si sono ben guardati da mettere in comune le regole di questa delicata materia. Gigi Donnelly, Radio 24, Sole 24 Ore. Oggi va di moda il refrain: l'Italia è lasciata sola dall'Europa in tema di immigrazione, ma da tempo l'Europa è impegnata in una strategia a breve, medio e lungo periodo per la gestione dei flussi migratori. È quanto ha detto Michele Cercone, portavoce del commissario europeo per gli affari interni, Cecilia Malmström. Nel breve periodo, ha precisato, l'Unione Europea è impegnata con sostegno finanziario e di risorse umane. Questo vuol dire che per l'Italia nel periodo 2007-2013 sono stati messi a disposizione circa 500 milioni di euro. Altri 30 milioni sono stati stanziati dopo la tragedia di Lampedusa, utilizzati in parte nell'operazione Mare Nostrum e in parte all'accoglienza dei migranti nei vari centri italiani. Dal riciclo di rifiuti, che altrimenti finirebbero in discarica, alla conservazione dello scoiattolo rosso europeo, fino ad un nuovo sistema di monitoraggio del patrimonio forestale. Sono 47 gli ecoprogetti italiani vincitori dell'ultimo bando del programma europeo Life Plus, per un totale di 96,7 milioni di euro. Si tratta di una fetta sostanziosa, oltre un terzo del budget complessivo di 282 milioni di euro di cofinanziamenti messi a disposizione dal programma europeo per l'ambiente, per un investimento totale nei paesi europei di 589,3 milioni di euro. E termina qui questo appuntamento con Europa 24. A tutti voi l'augurio di un buon pomeriggio. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.